Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria restano alcuni temi, mi riferisco, anche perché è tutt'altro che risolto, lo dico quasi in maniera sarcastica, il tema della posizione europea e degli aiuti veri, non a parole, non le paccate sulle spalle di Bruxelles nei confronti dell'emergenza che sta gestendo l'Italia quanto a sbarchi o persone che vengono sbarcate. È intervenuto anche il ministro degli interni Minniti. Già ieri abbiamo detto, a notizia fresca, che la somma complessivamente stanziata dall'Unione Europea, senza offesa per nessuno, ma siamo alle briciole, nel senso che se mettiamo assieme i 200 milioni che l'Unione Europea vuole dare all'Africa per arrivare al famoso fondo da 2 miliardi e 600 milioni, 46 milioni per migliorare le capacità operative della Libia, della Guardia Costiera Libica, e 35 milioni di euro a Roma, all'Italia, che si aggiungono ai 91 già stanziati, stiamo parlando, cioè anche a voler star larghi, di 290 milioni, se consideriamo i 91 già stanziati, di 280 milioni, scusatemi, se non consideriamo quelli già stanziati. Faccio notare, senza polemica, ma come dato di fatto, che alla Turchia, quando si trattava dei flussi di profughi, maggior parte politici, dalla Siria, per fare in modo che non sbarcassero sulle coste greche e poi da lì risalissero tutti i Balcani e assistere alla chiusura delle frontiere come un effetto domino, alla Turchia sono stati promessi 6 miliardi di euro, 3 più 3. E ora uno mi dice, certo, la Turchia è uno Stato che, per quanto di democrazia debba ancora apprendere i rudimenti, ma è uno Stato vero e proprio che controlla le sue frontiere, la Libia no. Perfetto, ma faccio notare semplicemente che con queste briciole è quasi una presa in giro. Infatti i flussi migratori dalla Siria si sono notevolmente ridotti, tant'è che la Grecia ha accolto solo 6.000 sbarchi da inizio anno, l'Italia 85.000, su 100.000 noi abbiamo l'85%. Allora, non voglio essere polemico, ma non è che, come nella fattoria degli animali di Orwell, tutti gli animali sono uguali, tutti i paesi sono uguali in questa Europa, però alcuni sono più uguali degli altri, che quando i problemi riguardano Austria, Slovenia, Ungheria, Germania, cioè tutto il mondo che ruota attorno a Berlino, si trovano i soldi subito. Se i problemi riguardano le coste italiane, tanto è più facile bloccare al confine, e comunque il problema ce l'ha l'Italia con un assetto, un'operazione Triton che, giustamente, a mio avviso, il ministro Minniti dice che va completamente rivista, senza che vi sia nessuna disponibilità dagli altri paesi. E questo è un fronte, anche perché, e ne parleremo subito in apertura, continuare a dire, come fa una parte, diciamo, del nostro ceto politico, che, o anche delle ONG, col massimo rispetto, che il problema dell'Africa è un problema di persone disperate che hanno fame, lo sappiamo benissimo. C'è un ragionamento che bisogna fare in maniera un pochino più non cinica, ma fredda e ferma, a mio avviso. L'Africa non ha un problema, l'Africa subsahariana, di fame e di sviluppo da 3 anni a questa parte, ce l'ha, ahimè, da tutto il periodo, se vogliamo andare indietro del tempo, post-coloniale. Abbiamo anche raccontato come in questi anni i tassi di crescita dell'Africa, grazie anche agli investimenti cinesi, siano stati molto più alti, che non vuol dire che si sia risolto nulla, ma che comunque non è peggiorata. Non siamo di fronte a una carestia in Niger, una carestia in altre, siamo di fronte a una maggiore opportunità, bisogna dirselo chiaramente, di arrivare sulle coste libiche, dovuto al fatto che lo Stato libico non c'è più, che l'economia libica, come scrive giustamente anche Alberto Negri oggi su Sole 24 Ore, l'economia libica inizia ad avere una voce importante, se non dico la principale, ma importante, dal traffico di esseri umani, e che se tu aumenti la possibilità, l'offerta, ti aumenta anche la domanda a questo punto. Quindi i flussi migratori sono flussi di persone disperate che hanno fame, tutto quello che volete, ma non c'è un motivo economico, diciamo, dell'Africa subsahariana degli ultimi 3-4 anni da dire è improvvisamente crollato tutto e abbiamo flussi di migranti che improvvisamente partono. Sarebbero partiti anche prima, ma prima c'erano delle frontiere libiche che funzionavano. Non mi si venga a dire, come fa qualcuno, ma Gheddafi li teneva in situazioni al limite dell'accettabile o anche non accettabili. Può essere vero che Gheddafi era un dittatore, ma quello che leggiamo su come vengono trattati questi profughi quando sono in Libia, tra stupri, violenze, torture e quant'altro, non mi sembra che sia una soluzione migliore o che denoti una maggiore attenzione per i migranti rispetto a quando c'era Gheddafi. Il problema è semplicemente che è più facile arrivare, diciamocelo con molta franchezza. L'Africa i problemi li aveva anche prima, i flussi non li avevamo in questo modo. Adesso, avendo un'offerta più alta, cioè l'offerta, diciamo, delle coste libiche, hai una domanda e quindi dei flussi più alti. Ne parleremo con Alberto Negri tra poco, che conosce molto bene la vicenda la situazione libica e che cosa dovrebbe servire anche per ripristinare le frontiere libiche. È chiaro, e per questo è un tema anche economico, che più in Libia la voce gestione migranti, gestione profughi diventa una voce economica importante, c'è chi sostiene che è arrivata a valere quanto quella del petrolio, è chiaro che se il paese si basa economicamente sul traffico di esseri umani devi dialogare con quel paese, perché sennò non ce la farai mai. E questo è il primo fronte. Ancora, per quello che riguarda invece il secondo fronte della giornata, riguarda ancora il mondo del credito, perché dobbiamo recuperare il tema del rapporto di Pricewaterhouse su quante sofferenze bancarie verranno vendute, cedute nell'anno in corso. PricewaterhouseCoopers stima che il mercato nel 2017 possa superare i 60 miliardi di euro come crediti deteriorati, che comunque sono in calo a 324 miliardi complessivamente. Oggi il ministro Padoan dice il peggio alle spalle, ha parlato in conferenza anche il numero uno del Monte dei Paschi, Marco Morelli, vi hanno raccontato i nostri GR24, ascolteremo anche i sindacati sul Monte dei Paschi di Siena. Morelli si augura che per l'autunno possa essere riammesso in contrattazione, ma parleremo complessivamente anche delle altre banche, perché come facciamo notare ieri, se il Monte dei Paschi vede chiudersi, si spera, la sua partita, invece c'è tutto un altro fronte delle banche che la partita chiusa non ce l'ha per nulla, e mi riferisco in primo luogo alle venete. Visto che parliamo di banche, parliamo anche della borsa. Meno 0,28% oggi Milano, il Dow Jones aperto dopo la chiusura di ieri è invariato, Parigi più 0,30, Francoforte più 0,30 e Londra invece più 0,11%, bene, Hughes Net a Porté più 4,30, Steamark Electronics più 3, Leonardo più 2,20, FinecoBank più 1,70 come Moncler, l'1,5% guadagna Prismian, l'1,20 Brembo, l'1% Ferrari. Fronte opposto è Saipem meno 3%, Biperbanca meno 2, Banca Mediolanum meno 1,70 come BPM, l'1,5% perde Fiat Chrysler, l'1,20 Eni, Mediobanca ed Enel. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo subito con le notizie in breve. Notizie in breve: petrolio sempre stabile a 46 dollari al barile, invece il consorzio europeo Airbus ha firmato un accordo con la China Aviation Supplies Holding Company, è un accordo quadro che prevede la vendita di 140 aerei per un valore complessivo di quasi 23 miliardi di dollari, riguarda 100 aerei a medio raggio A320 e 40 a lungo raggio A350. È uno dei più importanti contratti mai firmati da lungo tempo dal consorzio Airbus, ha dichiarato il numero uno Anders. Tra l'altro dell'accordo quadro è avvenuta in occasione della visita a Berlino del presidente cinese Xi Jinping. Restiamo in Asia perché l'Unione Europea e il Giappone hanno raggiunto un accordo politico sul trattato di libero scambio. L'intesa dovrebbe essere ufficializzata domani dal vertice bilaterale Unione Europea-Giappone che si terrà a Bruxelles, ma già la notizia è stata resa nota dal commissario europeo al commercio Cecilia Malmström. L'Italia, allora, il gettito fiscale in Italia è cresciuto nei primi 5 mesi dell'anno del 2% ed è cresciuta del 4,3% l'IVA, che da sempre, lo ricordo, è un termometro dell'andamento della nostra economia, al di là dell'evasione da IVA, ma vedere quant'è il gettito dell'IVA, immaginando che il resto sia invariato, ti dà anche il segnale se si sta ripigliando o no la nostra economia. Dicevo, un recupero dovuto sia all'introduzione dei meccanismi anti-evasione, ma anche a un leggero miglioramento dell'andamento economico. La crescita è del 22% del gettito IVA sui beni importati, che fa appunto ipotizzare una ripresa anche dei consumi. Il gettito è salito dell'1,5% se lo scorporiamo dal pagamento del canone TV. La buona notizia, al di là del dato negativo, perché stiamo parlando di morti, è che comunque, per quanto si parli di tragedie, il numero complessivo di questa tragedia, mi riferisco ai morti sul lavoro, è a un nuovo minimo storico. Sono 618 i morti sul lavoro. Faccio notare che per la legislazione italiana la morte sul lavoro è anche quando ti stai recando al lavoro o stai tornando all'abitazione. Perché lo dico? Perché metà di queste morti sono fuori dalle imprese, fuori dalle aziende, sono incidenti stradali che vengono però classificati come morti sul lavoro perché ti stavi recando al lavoro. E comunque il livello è il più basso quanto a morti, 618 morti, di cui il 54% fuori azienda, e invece per quello che riguarda le denunce complessive di infortuni sono 642.000. Tra l'altro, sempre l'INAIL fa sapere che c'è stata un'intensificazione delle imprese controllate con interventi mirati, ossia si va a colpo sicuro, si chiama la strategia del business intelligence, e quindi invece che andare a fare la cosiddetta battuta così a casaccio, quello che in inglese si chiama net fishing, pesca alla rete, tu punti le aziende e rompi le scatole a quelle regolari e rischi di non beccare quelle irregolari, l'INAIL è andata a colpo sicuro, così definisce la sua attività, laddove c'erano tutti gli indicatori di possibili irregolarità, e infatti ha ottenuto un risultato per cui delle imprese controllate il 90% sono risultate irregolari, e a seguito di questi controlli, in tutto sono 20.000 aziende, sono stati regolarizzati 58.000 lavoratori, di cui 52.000 erano irregolari e 5.000 in nero. Adesso commentiamo i dati dell'Istat sul lavoro e sull'occupazione giovanile. L'Istat fa notare che l'occupazione atipica al primo lavoro, quindi non a tempo indeterminato, è diffusa anche per i titoli di studio secondari superiori o universitari, e cresce all'aumentare del titolo di studio all'inizio, pari al 21% per chi ha concluso la scuola dell'obbligo e al 35% per chi ha conseguito la laurea. Quindi all'inizio dell'attività lavorativa è più alta la percentuale tra i laureati di chi ha un lavoro atipico che non di chi invece abbia un titolo di studio inferiore, e poi questo invece va via via scemando come proporzione. L'Istat dice anche che i segnali sono positivi ma in rallentamento dall'economia, bene i consumi, battuta dal resto dell'industria, degli investimenti e i dati sul lavoro. Il ministro Padoan dice che l'economia italiana va anche meglio della media e gli effetti delle politiche strutturali si vedranno nei prossimi trimestri. La priorità comunque in Italia resta il lavoro e la fiducia da dare ai giovani, nonostante la frustrazione esistente, che esistano segnali importanti per una possibilità di creare nuovo lavoro. La priorità del Paese è il lavoro, e il lavoro dei giovani in particolare, ma questo non lo dico con un senso di frustrazione, lo dico con un senso di molta fiducia, perché ci sono sintomi importanti che la possibilità di creare lavoro è forte, perché questo è un Paese che ha grandi risorse. Si tratta di mettere a disposizione del Paese degli strumenti che permettano di sfruttare meglio le risorse. Molti mi chiedono il Monte dei Paschi, vi arriviamo tra poco, diciamo, dopo la borsa e dopo il primo aggiornamento, per quello che parleremo anche dei derivati del tesoro, perché è arrivata la chiamata in giudizio per Morgan Stanley, oltre che per quattro alti dirigenti attuali e passati del tesoro, l'inchiesta della Corte dei Conti che è stata avviata l'anno scorso sui derivati dello Stato. Ne parleremo perché oggi c'è anche un'inchiesta del Sole 24 Ore, firma di Mario Longo, che in realtà ha avuto una prima fase lo scorso 18 giugno. Beh, insomma, Mario Longo ha dimostrato su Sole 24 Ore che negli anni che vanno dal 2013 al 2016, tra flussi negativi e riclassificazioni, i derivati dello Stato hanno prodotto un aumento di 24 miliardi di debito pubblico. Ma ripeto, ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per sms, whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in diretta video, sia sul sito della radio che su Facebook. Andiamo al primo tema. Ma anche economico, perché ripeto, già ieri l'ho fatto notare l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che su 100.000 arrivi via mare in Europa da inizio anno, l'85% è giunto in Italia, 85.000 persone, 9.000 in Grecia, 270 a Cipro, 6.400 in Spagna, con una stima drammatica di 2.247 morti in mare nello stesso periodo. Tra l'altro avete sentito dai nostri GR24 che l'Austria ha fatto un mezzo passo indietro sui blindati, l'Estonia si attende come Stato che ha la presidenza di turno, che dal vertice di Tallinn di domani, che è un vertice informale, però si arrivino soluzioni concrete. Oggi nella sua informativa alla Camera il ministro all'interno Marco Minniti ha detto: l'action plan della Commissione Europea ha accolto le nostre proposte, la prima è un codice di comportamento per le ONG che operano in mare. E poi Minniti ha detto: nei prossimi giorni faremo una riunione a Tripoli con i sindaci della Libia per discutere su come sganciarsi dal gioco dei trafficanti di esseri, dei trafficanti di esseri umani. Ora, il tema è anche economico, ecco perché ringrazio per averci aggiunto in collegamento Alberto Negri, storica firma e voce anche di Radio 24 quando parliamo di Medio Oriente, oltre che quando parliamo di guerre. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Dunque, perché economico? Non solo, poi veniamo anche ai flussi, diciamo, dall'Africa subsahariana. È economico per due motivi, secondo me, e vorrei sentire il tuo punto di vista. Uno, perché quando tu vedi che per i profughi siriani, politici o economici, mi interessa poco in questo caso, e per bloccare quelle che erano le tensioni che si creavano nei Balcani, Serbia, Croazia, Slovenia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e poi la Germania, si è fatto un accordo che vale 3 miliardi più altri 3 miliardi con la Turchia, e ci va bene. Infatti i dati che leggevo sui flussi in Grecia stanno a dimostrare che anche per motivi forse politici, ma insomma, la Turchia, quell'accordo è servito. Quando tu vedi che però all'Italia sono stati dati 35 milioni di euro che si aggiungono a 91 milioni per l'emergenza breve, poi sono stati dati sostanzialmente 200 milioni in più per arrivare ai famosi 2 miliardi e 600 milioni del Fondo Africa, non all'Italia, questi vengono versati dall'Unione Europea, e 46 milioni per la Guardia Costiera Libica per migliorare le capacità operative. Ti chiedo, sono briciole, bruscolini rispetto Oppure invece tu dici, la Turchia è un grande paese, la frontiera è più lunga, questo è un segnale importante. Siamo di fronte a una vera e propria ingiustizia che è accompagnata in realtà da un gravissimo senso di responsabilità della comunità internazionale. Perché? Mentre la Siria è stata una guerra per procura ed è ancora una guerra per procura, la Libia è stata una guerra portata direttamente dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, cui l'Italia si è dovuta accodare con i raid aerei sotto precisa minaccia che tra i bersagli della NATO erano inseriti anche i terminali petroliferi di Mellita dell'ENI. Quindi si è trattato di un intervento internazionale diretto, non indiretto come in Siria, e che ha provocato lo sprofondamento delle frontiere marittime dalla Sirte a oltre sotto il Sahel, cioè nel Sahara. Bene, dunque, di fronte a una situazione di questa genere ci doveva essere una precisa assunzione di responsabilità della comunità internazionale, che continua, come dire, a stanziare bruscolini di fronte a quella che è la vera dimensione del problema. Allora, qui io vorrei mantenere il più possibile anche sul fronte economico. C'è un dato di fatto: quei geni di Cameron, Sarkozy e, devo dire, da questo punto di vista anche Obama, che quanto a politica estera nel Medio Oriente, secondo me, fatto solo che casini, per dire con linguaggio poco diplomatico, però nel momento in cui loro obbligano l'Italia a intervenire, tu hai fatto molto bene a ricordare quella che fu la minaccia sotto traccia non raccontata ai terminali dell'ENI, perché insomma noi eravamo ed eravamo il principale paese quanto a dialogo con la Libia, tu ti aspetteresti che perlomeno, visto che il casino l'hanno creato loro, ci fosse un aiuto. Invece Macron, al di là di tante dichiarazioni, dice no, noi distinguiamo tra rifugiati politici e quelli economici. Te credo, quelli politici non ti arrivano perché sono quelli siriani, e quelli economici sì. E ti dimentichi che Macron non è un neogollista, ma insomma il tuo predecessore di quell'area lì, Sarkozy, fu quello che puntò per il complesso di grandeur francese ad abbattere Gheddafi. In realtà dietro c'era l'interesse sul petrolio. Ma soprattutto, Alberto, dopo il metro e la pubblicità, vorrei capire se il problema non sia ancora più serio, perché un conto è dire aiutiamo la Guardia Costiera Libica, aiutiamo di più l'Italia, mettiamo a disposizione più navi, quant'altro. Ma se per caso sta diventando una voce importante di introito nell'economia libica in ginocchio, il tema non è solo di aiuto alle frontiere, il tema è di riportare la Libia a un'economia che si basi molto di più sul petrolio e molto meno, per non dire nulla, sul traffico di migranti. Vorrei capire se sta diventando una voce importante del PIL libico dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. È molto importante che l'Unione Europea, Francia e Germania insieme con noi abbiano deciso di rafforzare il loro impegno economico, impegno politico in Libia. Lì si gioca una partita cruciale per i temi di cui stiamo discutendo. Il 97% delle persone che sono arrivate in Italia, delle persone salvate nel Mediterraneo centrale, vengono dalla Libia. Ma la cosa più incredibile è che vengono dalla Libia, ma non c'è un libico. E questa è la straordinaria contraddizione che abbiamo di fronte. Così ministro Minniti nell'informativa al Parlamento. Alberto Negri, da questo punto di vista tu stavi raccontando insomma di cosa è successo in Libia. Devo leggerti due notizie appena arrivate. Una riguarda proprio il generale Khalifa Haftar, che ha annunciato che Bengasi, la seconda maggiore città della Libia, è stata liberata dalla presenza di estremisti islamici dopo 3 anni di combattimenti. Il Comando Generale dell'Esercito Nazionale Libico ha annunciato oggi la ripulitura definitiva della città di Bengasi, nell'est della Libia, questo dai terroristi. Poi il petrolio, alcuni mi fanno notare che sono scattate le prese di profitto, vabbè, ma poi ne parleremo, meno 3,5%. E poi Minniti, nella sua informativa, ha detto: attenzione, qua ci giochiamo non solo una perdita di consenso di breve periodo, ma la tenuta del tessuto connettivo del nostro paese e un pezzo di futuro della nostra democrazia, chiedendo al Parlamento di essere unito. Io sono d'accordissimo con Minniti. Veniamo alla Libia. Non è che stia diventando una voce importante del PIL libico, per cui il problema non è solo rafforzare con quelle briciole di milioni la Guardia Costiera Libica, ma è riconvertire un paese che aveva come principale fonte di reddito il petrolio a quella fonte e fare in modo, Alberto, che non diventi una fonte di reddito la parte del traffico di esseri umani? Dunque, secondo alcune stime, il traffico di migranti innesca circa il 30% del volume del PIL della Libia di oggi. Ma non è solo questo. Siccome questi traffici riguardano non solo le coste, ma arrivano appunto fino oltre quelli che erano i confini della Libia e per esempio coinvolgono le tribù Tuareg, quelle dei Tebu, non si fermano soltanto alla Libia, ma si ramificano a tutti i paesi vicini e confinanti, dal Chad al Niger fino al Sudan, su un fronte amplissimo. Queste introiti sono diventati la vera, veleno che scorre nelle vene della Libia di oggi. Prima scorreva il petrolio, ma oggi il petrolio non è più quella voce così preponderante dell'economia libica. Che cosa bisogna fare allora? Bisogna riportare un minimo di sicurezza nella Libia affinché riprenda l'estrazione e l'esportazione del petrolio, che in qualche modo può contrastare l'economia del migrante e i traffici umani con tutto quello che si portano anche sotto profilo di stabilità internazionale. E poi riconoscere che in qualche modo l'Italia è un fattore di stabilità in Libia, perché guardate che quell'ENI che volevano bombardare è oggi quella che fornisce la maggior parte del carburante che dà l'elettricità a tutto il paese. Quindi cosa è successo? Che è vero che si è fatta la guerra in Libia, si è battuto Gheddafi, si è bombardato l'ISIS, ci si è alleati a seconda dei momenti o meno col generale Haftar, ma alla fine si è trascurato di portare la sicurezza dentro il paese e si è lasciato che bande criminali, tribù e attori locali facessero quello che vogliono in un'anarchia fuori controllo. Allora Alberto, adesso veniamo all'ultimo tema, che è quello politicamente più delicato, lo dico con massimo rispetto, però a me del politicamente corretto non me ne frega nulla. Premessa forse inutile, c'è tutta la solidarietà di fronte a persone che scappano o immigrano dalla povertà, e un paese come l'Italia, che è stato per decenni il principale paese di immigrazione verso il nord e Sud America e Australia e quant'altro, dovrebbe ricordarselo bene. Il problema è che una parte della nostra sinistra, o diciamo più buonista, più così, non voglio chiamarla gauche caviar perché sarebbe un'offesa, ha la seguente teoria: attenzione, sono profughi, tutti i profughi sono uguali, e per carità, però stanno scappando da un'Africa in ginocchio, stanno scappando da un'Africa, diciamo, che non ce la fa a risollevarsi. Ora, io faccio notare due cose. La prima è che è da 10 anni che stiamo raccontando che, seppur partendo da livelli di povertà estrema, l'Africa sta conoscendo, in alcuni paesi, non tutti, una rinascita. Ci sono anche gli investimenti cinesi, ma insomma non è era molto peggio da quello che noi vediamo l'Africa postcoloniale, l'Africa degli anni 70, 80 e 90. Dall'altro, Alberto, l'Africa, i problemi della povertà e del sottosviluppo africano esistevano anche 4, 5, 6 anni fa, ma non avevamo i flussi. Non è che questo approccio si dimentichi un piccolo dettaglio: i poveri e i disperati sono sempre poveri e disperati, ma se tu, proprio perché sono poveri e disperati, aumenti l'offerta, aumentano anche i flussi, o è troppo cinico come ragionamento? Allora, intanto per cominciare, questa azione che ci fu nel 2011 in Libia avrebbe dovuto teoricamente portare la democrazia, la libertà del paese, eccetera. Era importante soprattutto che portasse un minimo di garanzia di diritti. Bene, allora forse la maggior parte della gente ignora che i migranti che arrivano in Libia non hanno la classificazione di migranti, ma di clandestini, perché la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra. Allora io mi domando, visto che la comunità internazionale, l'Italia, l'Unione Europea sostiene questo governo, almeno nominalmente, Al-Sarraj, debole quanto si vuole, però bisogna perlomeno arrivare al fatto che la Libia accetti che questi non sono clandestini ma migranti o rifugiati, e questo già cambia di molto le cose, perché allora si può intervenire con le agenzie internazionali sul terreno e in qualche modo fa scattare i famosi meccanismi dell'accoglienza di carattere internazionale che ci sono dappertutto. Voglio ricordare che i rifugiati della Siria sono stati accolti dalla Turchia, 2,5 milioni, circa 3 milioni, 1 milione però dalla Giordania e 1 milione sta in Libano. Allora, di fronte a situazioni di questo genere, in qual modo si deve cercare di riportare la Libia in un quadro giuridico che possa anche garantire un intervento umanitario. Poi c'è il problema decennale, da decenni che si parla dello sviluppo dell'Africa, non è che comincia oggi a parlarne, sono 40 anni che lo studiamo. Bene. Di fronte al fatto che comunque lo sviluppo richiede tempo, eccetera, qual è la possibilità che si può imboccare subito? Quella di portare servizi, strade, ospedali, scuole, eccetera, che in qualche modo rendano per gli africani che scappano dai loro luoghi di origine un ambiente un po' più sopportabile di quello che hanno oggi. Allora, e su questo vorrei chiudere con Alberto Negri, sempre lucidissimo nella sua analisi. Qualcuno mi cita addirittura Jacopetti nel film Africa Dio, sì ragazzi, è un altro mondo, quello era il post-colonialismo, un'Africa con empiti di modernità e poi invece aveva anche un ritorno al passato. Qui stiamo parlando di un'altra cosa e ripeto, non significa essere razzisti o spietati nel ricordare che se tu a dei disperati, a persone che hanno problemi economici, offre la possibilità, dici guarda che ci sono più possibilità in quel confine, è ovvio che aumenti i flussi migratori, lo capisce anche un bambino, tant'è che i nostri migranti andavano laddove c'era domanda, non è che andassero così a casaccio. Nel momento in cui gli Stati Uniti dovevano investire sulle grandi opere infrastrutturali dell'Ottocento, si riempivano per costruire le ferrovie americane di immigrati italiani, su, per cui è da sempre così. Il problema è che qui si è creata un'offerta non perché ci sia questa domanda dall'Italia, dalla Germania o dall'Europa, ma semplicemente che non c'è più il confine e c'è qualcuno che ci guadagna e ci lucra. Che cosa deve fare, Alberto, il nostro governo? Poco fa Minniti ha detto una cosa che diciamo modestamente anche noi da 3-4 giorni. È inaccettabile la sproporzione dell'accordo con la Turchia, cioè tra i soldi messi, le 2 lirette messe, i 153 milioni messi per l'Italia e i 3+3 miliardi, cioè 6 miliardi in tutto per la Turchia. L'ha appena detto Minniti, mi sembra che su quella dovrebbe essere una linea molto dura e molto ferma del governo italiano. Occorre che andiamo a Bruxelles a battere i pugni, chiediamo l'intervento dell'ONU, minacciamo che cosa e soprattutto, senza girarci troppo attorno e nonostante le anime belle, è necessario a questo punto un intervento anche in Libia? Allora, dell'intervento in Libia si era già parlato 1 anno e mezzo fa e se ricordate bene il ministro della difesa Pinotti, che è anche quello attuale, addirittura aveva parlato di mandare 5.000 uomini in Libia in un'ipotetica missione militare internazionale. Io faccio una domanda. Si è bombardato Gheddafi, si è bombardato l'ISIS, si è intervenuti a tutto spiano dall'alto militarmente? Avete portato a casa uno scafista dalle coste libiche? No, non mi sembra, ecco, ti rispondo io. Dentro questa domanda c'è forse anche la risposta. E cioè tu dici? Io dico semplicemente che bisogna prendere tutte le misure, anche quelle dal punto di vista necessario di sicurezza e militare, per fermare un traffico che sta creando non soltanto profughi, ma anche, come hai sottolineato prima, migliaia di morti. Vogliamo lasciare in mano la gente ai trafficanti? Questo è il discorso. Sembra quasi che rispetto a Gheddafi lì vengano accolti da così ONG, vengono stuprati, violentate le donne, lo racconta anche il medico eroe dell'ospedale di Lampedusa, che gli arrivano donne incinte spesso a causa di stupri, torturate, violenze e quant'altro. Non mi sembra che proprio rispetto a Gheddafi ci sia tutto questo così. Attenzione per i diritti umani. Ho capito benissimo il ragionamento di Alberto Negri, dice: attenzione, che se le operazioni solo dall'aria otteniamo poco, bisogna anche ragionare in maniera molto chiara se non serve, diciamo, un'operazione anche da terra. Non mi hai risposto, Alberto, però, e poi chiudo veramente su quello che dovrebbe essere la posizione dell'Italia nei confronti di Bruxelles e degli altri paesi. Ma la posizione dell'Italia è quella che deve crescere, cioè da Bruxelles puoi fare tutte le pressioni che vuoi, tutte, cercare di ottenere il massimo, soprattutto dal punto di vista economico, dopo l'esempio che ci citavamo della Turchia, ma è importante che l'Italia si renda conto di una cosa, che quelli che sono i suoi alleati sono stati anche quelli che gli hanno provocato il problema in Siria, sono gli stessi che 6 anni fa avevano detto che Bashar Assad stava per cadere, attenzione. Quindi a un certo punto l'Italia, dopo 70 anni di protettorato americano, di NATO e di tutto il resto, deve cercare di crescere. E di agire in maniera autonoma? Certo, ma questo mi sembra evidente, come se abbiamo sempre dato soldi per esempio alla Guardia Costiera Libica e dobbiamo in qualche modo pretendere in questi accordi che ci siano anche la Guardia Costiera Italiana. Sono d'accordo, d'accordissimo con tutto, Alberto, non ho niente da dirti, grazie, se ne resta solo la frustrazione per temi che da tempo si dicevano e da tempo venivano toccati e poi diventano d'attualità solo durante l'emergenza, con una figura indicibile e forse anche indelebile dell'Unione Europea. Traffico. Focus Economia. Allora passiamo alla borsa, guardi, qualcuno adesso dice inneggia finalmente, ma non è un problema di partiti politici, è un problema di realismo, di non avere sempre l'ideologia, così come ieri abbiamo difeso il ruolo degli immigrati regolari in questo paese e quello che diceva Boeri, abbiamo al massimo criticato il tempismo di Boeri, ma innegabile quello che diceva Boeri sul contributo che danno al sistema previdenziale, ed è inutile girarci attorno. Allo stesso modo si può dire in maniera molto chiara che certo atteggiamento così perbenista, buonista, a tutti i costi, non porta a niente, non porta a capire che c'è un problema da gestire. Per cui a mio avviso si può tenere in piedi il doppio binario del riconoscere quanto l'Italia ha bisogno di lavoratori che vengono da fuori, non necessariamente dall'Europa, per tanti lavori che gli italiani non vogliono fare, perché gli stipendi sono bassi, non voglio tornare sulla polemica di ieri, ma c'è bisogno, quanto essi siano contribuenti netti sul fronte del welfare, cioè pagano anche il nostro welfare, e Boeri l'ha chiarito in maniera molto evidente ieri, e allo stesso modo chiedere che vengano bloccati i barconi e che non è possibile che le ONG vadano a pigliarsi al confine delle acque territoriali, va bene? Non è che uno, siccome ti chiami ONG, sei per forza brava, buona e giusta, non è così, e chi l'ha detto? Chi te l'ha dato il patentino? Puoi anche sbagliare, in assoluta buona fede, puoi anche sbagliare. Che il soccorso è una cosa, l'attesa che tu arrivi è un'altra. Allora, la borsa, andiamo sulla borsa di oggi e poi invece la prossima parte del programma è tutto di carattere finanziario. Meno 0,44% Milano, più 0,10% Parigi, più 0,13% Francoforte, più 0,14% Londra, Dow Jones invariato, insomma sono giornate non particolarmente ricche di spunti. Leonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dicevamo dei realizzi sul petrolio, meno 3,5% il WTI e anche il Brent, è sceso quindi a $45 il WTI. Bene, oggi di nuovo Cassa di risparmio di Genova dopo il piano e sì, l'aumento, esatto, di capitale. Prego. Sì, sì, esatto, la Cassa di Risparmio di Genova continua a correre, ieri aveva fatto oltre il più 20%, ma anche quest'oggi ha fatto più 5,5%, la banca dovrebbe uscire appunto dalla sua grave crisi con questa operazione da ben 700 milioni di euro, di cui 500 milioni rinvenienti da un aumento di capitale, 200 da cessioni, e dovrebbe procedere nell'alleggerimento degli NPL, cioè dei crediti in sofferenza, per 1,2 miliardi. Il piano piace al mercato, che così continua a premiare le azioni. Ancora per quello che riguarda gli altri temi, ricordo che oggi si sono mosse bene soprattutto UX Net-a-Porter più 4,5%, e non solo, perché ho visto in generale muoversi anche Moncler più 1,12%, un po' di, e Ferragamo più 0,50%. Leonora. Sì, in questo caso a riaccendere, diciamo, i riflettori su questi titoli è stata una casa di investimento, Jeffrey, che ha consigliato l'acquisto soprattutto delle azioni di UX Net-a-Porter e di Moncler, che si sono distinte mentre la borsa andava giù, appunto guadagnavano terreno. Poi c'è probabilmente un po' un riassetto settoriale nei portafogli. Oggi abbiamo visto andare meglio un po' il comparto del lusso rispetto alle banche, che invece erano state gettonate nei giorni scorsi. Ieri erano andate molto bene, quindi oggi sono scattate tutto sommato le prese di beneficio, con alcuni titoli che sono andati particolarmente male come Banco BPM e Biper, che hanno lasciato sul parterre oltre il 2%. Allora, il resto dei titoli dopo GR24, qualcuno mi scrive: ecco, siete dei neocolonialisti per l'intervento militare a terra, siete diventati dei razzisti. Guarda, non ha capito nulla, a mio avviso. E comunque, se un intervento militare in Libia potesse prevenire gli stupri e la violenza e le torture che vengono fatte a questi poveretti, già quello lo giustificherebbe, oltre che ripristinare il confine con la Libia e ripristinare i confini libici in generale. Comunque, se lei pensa che siamo dei neocolonialisti e dei neoschiavisti, va bene, questo fa parte, diciamo, della libera interpretazione. Dopo il GR24, gli altri titoli e le vicende di Monte dei Paschi e le banche venete, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dunque, Leonora Micheli, stavamo concludendo la pagina di mercato, oltre che Cassa di Risparmio di Genova e Lusso, Moncler e Yux. Parliamo di petrolio, visto il calo brusco nel finale del petrolio, e abbiamo visto Saipem soffrire meno 2,70%, anche Eni meno 1,40%. Sì, infatti nel pomeriggio è andato molto male il petrolio, anche sulle indiscrezioni che la Russia sembra opporsi a eventuali nuovi tagli alla produzione. A questo punto è scattato ovviamente il conto alla rovescia per il meeting che si terrà proprio in Russia a San Pietroburgo il prossimo 24 luglio, dove si confronteranno alcuni paesi OPEC e paesi non OPEC. Ovviamente ci sarà molta volatilità, oggi è andato male il greggio, ha penalizzato Eni meno 1,4%, ma soprattutto Saipem meno 2,7%, quest'ultima penalizzata anche da alcuni giudizi negativi da parte di analisti. Ancora sui titoli Atlantia, sembrava tutto fatto col via libera della Consob spagnola. Atlantia, che è l'ex autostrada per l'Italia, ha lanciato un'offerta su Abertis, che è l'Atlantia spagnola, per essere modesti, nel senso che controlla anche società autostradali in Sud America. Che cosa è successo? Perché la stampa spagnola, se ho ben visto, ipotizza che si possa riaprire l'intero dossier? Esatto, la stampa spagnola, come un fulmine a ciel sereno, ha indicato che la stessa JP Morgan, attraverso il suo fondo infrastrutturale, starebbe mettendo su un consorzio formato da più controparti, da fondi infrastrutturali, fondi pensioni di varie nazionalità, per lanciare una controopa sul gruppo spagnolo Abertis. E tra l'altro di questo consorzio potrebbe far parte Global Via, una società che già opera in Spagna, gestisce infatti le linee del metro e insomma ha già a che fare con il governo spagnolo, per cui alla fine potrebbe avere addirittura la meglio. Tra l'altro sempre la stampa spagnola sostiene che ci sono anche altri gruppi che starebbero studiando il dossier. Fatto sta che a Madrid le azioni di Abertis sono salite dell'1,33%, anche se il prezzo continua a sottostare rispetto a quello offerto dalla stessa Atlantia. Ricordiamo che Atlantia ha messo sul piatto 16,5 euro, oggi le Abertis hanno chiuso a 16,41 euro. E d'altronde Atlantia invece è stata abbastanza nervosa per tutta la seduta, sul finale ha ceduto lo 0,12% perché ovviamente nel caso in cui dovessero rivedere al rialzo l'offerta non sarebbe positivo per i conti del gruppo, e quindi gli analisti stanno un po' alla finestra, stanno a vedere. Allora, grazie Eleonora Micheli, vi do i migliori e i peggiori come sempre a quest'ora, sostanzialmente Vim Capital più 30%, Invest più 20,60%, Ecosantec più 7,20%, fronte opposto Caleido Group meno 7,70%, Club meno 5,80%, Pit Energia meno 5,40%. Grazie appunto Eleonora Micheli. Noi adesso restiamo sul tema delle banche e delle sofferenze bancarie, perché prima di arrivare al Monte dei Paschi, oggi la conference call del numero uno Marco Morelli, c'è il rapporto che ieri non siamo riusciti a trattare di PricewaterhouseCoopers sul mercato italiano dei crediti deteriorati, quindi delle sofferenze italiane. Allora, le sofferenze italiane ammontano a circa 77 miliardi di euro in valori netti, cioè i crediti già svalutati, nel senso che le banche non li hanno in pancia al valore nominale. Se io devo alla banca 100 euro e sono considerato insolvente, cioè non potrò ridarglieli, non tiene a bilancio i 100 euro che io le devo, li ha già svalutati di almeno il 40-50%, quindi dice forse recupererò da Barisoni 40-50 euro. Se va bene, questo è il valore netto dei 77 miliardi. Certo che se mettiamo dentro anche gli incagli, e quindi quelle che non sono ancora sofferenze ma potrebbero con molta possibilità diventarlo, e i prestiti scaduti, si arriva a 140 miliardi circa, 150 miliardi di valore netto. Questi vengono valutati sul mercato attualmente tra il 15-20% del valore nominale, e quindi c'è una grossa differenza tra quanto la banca ce le ha in pancia, perché anche se fosse al 50% ipotizzeresti di poter recuperare da me 50 euro su 100, mentre il mercato dice no, guarda che da Barisoni quella roba lì al massimo riesce a recuperare 15-20 euro, e la differenza è più è alta la differenza, più la banca corre il rischio di avere un abbassamento del patrimonio e dover ricapitalizzare. I crediti deteriorati in Italia sono in larghissima parte riconducibili ai finanziamenti alle imprese, non sono tanto le famiglie, anche perché le famiglie molto spesso avevano come garanzia l'immobile, quindi è poco da perderci, casomai ti resta l'immobile da vendere. L'Italia ha il peggior rapporto tra impieghi totali, cioè quanto la banca complessivamente ha prestato, e crediti deteriorati, quanto non potrà più essere restituito, il 16%. Siamo terzi dopo Grecia al 46%, Portogallo al 19%. Ringrazio Vito Ruscigno, che è co-head NPL di PricewaterhouseCoopers, cioè si occupa, è corresponsabile della gestione dei non performing loans, delle sofferenze bancarie. Buonasera. Buonasera. Nel vostro rapporto ieri avete stimato in quale valore il mercato per il 2017, ma anche avete dato un'indicazione su come sta andando l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati, prego. Sì, diamo subito una notizia. Per la prima volta nel 2016 c'è stata un'inversione di tendenza nello stock di crediti deteriorati. Dopo 8 anni di crescita annua media del 22% dello stock dei crediti nel 2008, quindi ai livelli pre-crisi, lo stock era di 85 miliardi, nel 2015 il valore era 4 volte superiore, quindi di 341 miliardi. Come dicevo, nel 2016 c'è stata una riduzione del 5% di questo stock, quindi diciamo è una buona notizia. Però come diceva lei, lo stock in Italia, l'NPL ratio, cioè il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali, è ancora tra i più elevati in Europa. Basti pensare che la Germania ha il 2% e il Regno Unito ha l'1%. Dal punto di vista delle sofferenze siamo rimasti stabili, c'è stata una riduzione degli incagli. Sì, cosa vuol dire stimare che il mercato possa superare i 60 miliardi e soprattutto qual è la vostra previsione sulla capacità, possibilità che avranno le banche di ottenere una cifra il più vicino possibile a quella che hanno in bilancio per non svalutare troppo? Allora, stimare 60 miliardi significa che dai bilanci bancari verranno eliminati 60 miliardi di valore lordo dei crediti. Noi fino al primo semestre abbiamo già registrato operazioni per circa 10 miliardi, ma basti pensare che due operazioni ammontano a circa 35 miliardi. Una è il completamento della cessione dei crediti da parte di Unicredit legato all'aumento di capitale dello scorso dicembre, l'altra dovrebbe essere con l'approvazione del decreto per le due venete della creazione della Bad Bank per un ammontare pari a circa 17 miliardi. Quindi solo queste due operazioni ammontano a 35 miliardi. Se poi si pensa che solamente a luglio sono in corso operazioni per altri 5 miliardi, si può vedere come facilmente arriveremo a 60, con appunto l'indicazione da parte di Padoan che lo smaltimento dei crediti deteriorati da parte del Monte formalmente pulirà i bilanci del Monte solamente a giugno 2018. Per rispondere alla sua seconda domanda, come si potrà ridurre il gap che c'è tra prezzo richiesto dalle banche e prezzo offerto dagli investitori? Ovviamente da un lato le banche dovranno lavorare su una maggiore copertura di questi crediti, dall'altro il governo è intervenuto anche per introdurre delle facilitazioni nelle procedure di recupero del credito, nonché comunque una maggiore stabilità e un miglioramento del quadro economico complessivo dell'Italia permetterà di anche incrementare da parte dei fondi il valore di questi crediti. Quindi questo permetterà di ridurre la forchetta che in questo momento è presente tra valore di libro, valore per le banche e prezzo offerto dai fondi. Quindi siete cautamente ottimisti sulla possibilità che questo divario tra il 40-50% del valore nominale a cui ce l'ha in pancia la banca e il 15-20% offerto dai cosiddetti fondi avvoltoio possa ridursi? Sicuramente, diciamo che, come diceva giustamente lei, è un cauto ottimismo. Il tutto dipende ovviamente da un miglioramento del quadro macroeconomico. Se il mercato immobiliare si riprende, ovviamente il prezzo che i fondi di investimento sono disponibili a pagare per i crediti ipotecari sarà più alto, così come se in generale l'economia migliora e quindi chi non è in grado di pagare i propri debiti ha la possibilità di avere un nuovo lavoro e quindi di avere un reddito, potrà rimborsare i propri crediti e quindi questo permetterà sempre ai fondi di valorizzare al meglio i crediti. Ecco, su questo e per concludere, cosa ne pensa invece dell'operazione sulle banche venete? Lo dico perché intanto saluto anche Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Oggi l'EBA, che è l'autorità bancaria europea, quella che da Londra dovrà trasferirsi, probabilmente o Berlino, Francoforte, scusatemi, ha un presidente che è Andrea Enria. E in audizione al Senato italiano ha detto: nel salvataggio delle banche venete sembra essere emersa la possibilità che l'interesse pubblico sia valutato in modo diverso a livello europeo e nazionale. Questo potenzialmente apre la strada alla possibilità che diverse preferenze emergano a livello nazionale sull'utilizzo di meccanismi di supporto pubblico. Non sembra aver tenuto il principio chiave del no credit worse off, secondo cui nessun creditore deve trovarsi in peggiori condizioni nella risoluzione rispetto alla liquidazione. E poi ha detto Enria: il volume dei crediti deteriorati è ancora eccessivamente elevato nell'Unione Europea, oltre poco al di sotto dei 1.000 miliardi di euro. Tra l'altro, l'Italia pesa moltissimo, questo lo sapevamo anche noi. Vabbè, al di là del fatto che io non ho capito bene cosa abbia detto Enria, ma adesso lo chiederò a Gianni Trovati, che è da sempre molto più intelligente di me, non che che ce ne voglia tanto. Ruscigno. La soluzione delle banche venete e anche del Monte dei Paschi è una soluzione che aiuta alla fine? Sì, sicuramente aiuta. Il fallimento di una banca non è il fallimento di una società industriale, quindi evitare l'effetto panico è fondamentale, specialmente in una zona produttiva e ricca come quella del Triveneto. In questo modo le banche possono continuare a lavorare con continuità e si potranno gestire i crediti con il tempo necessario per recuperare il giusto valore. Ha creato meno discontinuità a questo tipo di operazione e penso che il governo abbia cercato di implementare diverse soluzioni, ma forse questa è stata l'unica che permetterà di risolvere in poco tempo il problema dello stock di deteriorato delle due banche venete. Allora, grazie anche al appunto corresponsabile del settore NPL, quindi sofferenze bancarie di PricewaterhouseCoopers, Vito Ruscigno. Gianni, resta con noi, ho il traffico e poi invece andiamo proprio su Monte dei Paschi e Banche Venete. Focus Economia. La riammissione della quotazione in borsa la decide la Consob, come ho detto, nel momento in cui ritiene ripristinato un completo quadro informativo. Secondo le stime che abbiamo fatto sullo sviluppo degli eventi, di quello che tutti quanti dobbiamo fare, probabilmente noi saremo in grado di pubblicare un prospetto di offerta nella seconda metà di settembre. Quello probabilmente è il momento. Così appunto Marco Morelli oggi nella conference call sulla quotazione in borsa per l'autunno. Gianni, tra l'altro Morelli ha anche detto che il suo stipendio è stato tagliato del 70%, e devo dire che c'è stato un po' di polemica sugli esuberi, 5.500 esuberi previsti nel piano, ma in realtà il numero uno delle Federazioni Autonome Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni, al microfono della nostra Anna Marino, ha detto: beh, insomma, il modo in cui verranno gestite queste uscite ci soddisfa. Noi abbiamo gestito gli esuberi di tutte le banche italiane in questi ultimi 10 anni attraverso i prepensionamenti volontari, e attraverso i prepensionamenti volontari abbiamo anche ottenuto ricambio generazionale, perché nei gruppi bancari abbiamo ottenuto anche nuove assunzioni. Per quanto riguarda il gruppo MPS, abbiamo preteso, quindi non c'è stata fatta nessuna concessione, sono stati costretti, abbiamo preteso che gli esuberi venissero gestiti con i prepensionamenti volontari, quindi abbiamo evitato quei licenziamenti che invece sono stati purtroppo perpetrati in gran parte nelle banche europee. Quindi avete evitato delle uscite, dei licenziamenti, e come verranno gestiti questi esuberi? Verranno gestiti su base volontaria, quindi prepensionamenti volontari fino a 5 anni, ma l'aspetto più importante è che avremo una banca che camminerà con le proprie gambe grazie all'intervento del governo e anche dello Stato, quindi sarà nelle condizioni di poter assicurare la normale attività come ha fatto fino adesso. Non ci saranno vittime tra virgolette fra la stessa clientela, perché nessun cliente uscirà comunque penalizzato. È stato determinante l'intervento del governo e quindi dello Stato. Per quanto riguarda il percorso sindacale, ma la trattativa parte domani, in effetti non c'è stata una trattativa, perché finché il gruppo MPS non ha ricevuto via libera da parte della Commissione europea e da parte della stessa BCE, le trattative non potevano iniziare, partiranno domani. Allora Gianni, trovati da questo punto di vista, visto che ne hai scritto anche tu, il fronte Monte dei Paschi mi sembra che anche con i sindacati si sia risolto. Se mi aiuti a capire l'obiezione di Andrea Enria, che insomma è italiano così, solo per nome, perché non ho mai visto l'EBA avere così una comprensione di quello che è il sistema delle imprese italiane, perché si sono generate così tante sofferenze per i crediti anche alle piccole e medie imprese, e se tiene assieme anche le due banche venete appese a 700 emendamenti. Sì, allora l'obiezione è la seguente: sostanzialmente in Italia si pensava, il governo pensava, che sia MPS sia le due venete avessero un valore sistemico tale da permettere in entrambi i casi la ricapitalizzazione precauzionale, cioè l'aumento di capitale con i soldi dello Stato. In Europa, fin dall'inizio di questa lunga e complessa trattativa, le voci sono state invece diverse. Si è stati sostanzialmente d'accordo fin dall'inizio su MPS, si è stati poco o per nulla d'accordo in molti ambienti europei sul salvataggio delle vendite. Probabilmente lì ci sono anche ragioni politiche. Siamo nell'era del bail-in, la ricapitalizzazione precauzionale è un'eccezione al bail-in, un'eccezione non può essere riconosciuta sempre, se no la regola muore o perde, diciamo così, di credibilità. Da questo punto di vista le due venete sono state probabilmente anche una vittima sacrificale dell'esigenza di non permettere in tutti i casi richiesti la ricapitalizzazione precauzionale. Questo naturalmente comporta per i creditori subordinati delle venete rispetto ai creditori e titolari di bond subordinati di MPS conseguenze diverse, nel senso che MPS avranno il ristoro integrale con il meccanismo scritto nel decreto salva risparmio dell'investimento iniziale, per le venete ci sono criteri più stringenti che sostanzialmente sono quelli previsti già a suo tempo per Etruria e le altre tre banche regionali. Anche questo aspetto animerà il dibattito in Parlamento, che è un dibattito ad alta tensione politica ma al momento a bassissimo valore pratico, perché il decreto è blindato da una clausola di rescissione. Intendo ha detto che se cambia qualcosa lei se ne va, le venete cadono, tutto il piano crolla, eccetera eccetera, e nessuno ha un interesse politico vero ad arrivare a quel tipo di situazione. Quindi si grida un po', si scrivono lettere, si conquistano titoli sui giornali, ma poi il decreto passa. E quindi diciamo sembri però molto poco preoccupato per i 700 emendamenti, appunto grande così agitazione per motivi politici, ma vorrei anch'io vedere chi poi si dovesse assumere la responsabilità di far saltare tutto il banco e portare le due banche al bail-in, al fallimento, solo per motivi così di tattica breve, miope tattica elettorale. Grazie anche a Gianni Trovati, è tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni lo auguro una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.